Adesso ti metto le mani in bocca, come l'hip hop della giornata. Se la caga ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ti ammazza, nago di pagarlo a cara, come fanno tutti. Oggi la minchia di scuola, ehi, la minchia di scuola, cazzo, cazzo, merda, merda, merda, che fonte. Avevo voglia di stare a guardare in giro della classe, avevo voglia di non studiare matematica per tutte. Io ero sciopzoliore. C'è gente che parla,